Risposta dei fedeli alla parola di Dio. Il Salmo responsoriale è come una prosecuzione delle tematiche proposte dalla prima lettura. L'insegnamento ricevuto diviene preghiera, orazione che eleviamo a Dio con parole che Egli stesso ha messo sulla bocca degli uomini. È proprio per questo la miglior risposta alle richieste divine che abbiamo ascoltato. Spiegava Sant'Agostino: quando dunque noi ascoltiamo i salmi o le profezie o la legge, libri tutti che furono composti prima della venuta del nostro Signore Gesù Cristo, tutto il nostro sforzo deve essere quello di vedervi Cristo e di comprendervi Cristo. Presti dunque attenzione la vostra carità al salmo presente come ve la prestiamo noi. Insieme cerchiamo il Cristo. Egli si mostrerà certamente a noi che lo cerchiamo, se una volta si mostrò anche a coloro che non lo cercavano, e se una volta redense coloro che lo ignoravano, ora non abbandonerà coloro che lo desiderano. Alle parole del lettore o del celebrante, il popolo risponde con una breve acclamazione, presa generalmente dal Salmo stesso, che riassume il senso della nostra supplica. Sforziamoci di recitare con calma queste parole, parole che sono, lo ripeto, preghiera, tutti insieme, pensando a ciò che diciamo e a colui al quale ci rivolgiamo. Osservate con quale riverenza si comportavano i primi cristiani nell'ascolto e nella meditazione della parola divina. Uno scrittore ecclesiastico del secondo secolo ci ha trasmesso in merito una significativa testimonianza. Rivolgendosi ai fedeli, così li esortava: voi che siete soliti partecipare ai divini misteri, sapete come, quando ricevete il corpo del Signore, lo custodite con ogni precauzione e venerazione, affinché non ne cada la più piccola parte, affinché non sia perduto alcunché del dono consacrato. Vi ritterreste colpevoli, e rettamente vi ritterreste tali, se da esse cadesse qualcosa per negligenza. Che se giustamente usate tanta precauzione per custodire il suo corpo, perché pensate che sia delitto degno di minore espiazione l'avere trascurato il Verbo invece che il corpo di Dio? La proclamazione del Vangelo e l'omelia. Dobbiamo impiegare questa cura e venerazione specialmente nell'ascoltare il Vangelo. Il Signore ci parla non più per bocca dei Suoi messaggeri, i profeti, gli apostoli, ma addirittura per bocca di Suo Figlio, il Verbo incarnato. Il Re in persona viene incontro ai Suoi sudditi. La bocca di Cristo è il Vangelo. Egli siede in cielo, ma non cessa di parlare sulla terra. La liturgia circonda la proclamazione del Vangelo di riti che manifestano riverenza. I fedeli si alzano in piedi in segno di rispetto. Durante la messa solenne, delle candele accese accompagnano il diacono o il presbitero, mentre egli mantiene alto alla vista di tutti il libro dei Vangeli. Prima però, consapevole della propria indegnità, si inclina davanti all'altare per recitare il Munda Cor Meum, una supplica in cui chiede nuovamente al Signore la purificazione del proprio cuore e delle proprie labbra per annunciare degnamente il suo Vangelo. Nel frattempo il coro e il popolo intonano l'Alleluia, canto con il quale i fedeli ricevono e salutano il Signore che sta per predicare loro. Si ode un'acclamazione esultante. In fondo è una manifestazione di fede nella presenza di Cristo durante la liturgia della parola. Tutto ora invita all'esultanza e alla gioia, espresse anche attraverso i gesti del corpo e la delicatezza dell'anima, attraverso le azioni e la voce. È facile intuire che la liturgia in questo momento invita gli uomini e le donne a lodare Dio in pienezza. Una volta giunto all'ambone, il ministro ordinato vi colloca il libro dei Vangeli. Nelle messe più solenni lo incensa con riverenza. La musica tace e l'assemblea dei fedeli, riunita alla presenza del Signore, mantiene il silenzio. Il diacono o il presbitero alza la voce per annunciare che Cristo è in mezzo a noi. Dominus vobiscum. Tocca il libro con il pollice della mano destra tracciando una piccola croce, quindi si segna sulla fronte, sulla bocca e sul petto, mentre dichiara ai presenti che si accinge a proclamare il Vangelo di Cristo, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Romani 1,16, come scrive San Paolo. Tali gesti hanno un significato assai preciso. simboleggiano i nostri desideri di appropriarci della verità del Vangelo, affinché impregni pienamente i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Ci vengono comunicati gli insegnamenti del Signore perché li meditiamo nell'intimità personale e li assimiliamo nelle nostre anime. Così potremo comunicarli con le nostre conversazioni e azioni alle persone incontrate durante la giornata. Scopriamo nuovamente un appello alla responsabilità apostolica dei cristiani, appello che assume particolare forza nella Santa Messa. Impegniamoci ad approfondire le letture della Messa, magari imparando a memoria qualche frase che possa servirci per alimentare la presenza di Dio lungo la giornata. In merito, tutti possiamo esaminarci concretamente e vedere come migliorare. Quale profitto ne traiamo? Assaporiamo i momenti di silenzio previsti al termine del Vangelo per applicare alla nostra vita la predicazione del Signore. Il silenzio prescritto dalla liturgia dopo la proclamazione del Vangelo, oppure in alcuni casi dopo l'omelia, ha come fine quello di farci interiorizzare la parola di Dio appena letta, lasciando agire il Paraclito. In effetti, la presenza di Cristo nella sua parola è sempre accompagnata dalla presenza dello Spirito Santo. Nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. 1 Corinzi 12:3. Soltanto un'anima che coltiva il silenzio interiore e cerca di smorzare i rumori provenienti dall'esterno o da noi stessi si trova nelle condizioni giuste per ascoltare i suggerimenti intimi del Paraclito, dai quali dipende l'efficacia della nostra risposta al Vangelo. È molto opportuna l'insistenza con la quale San Cosimaria ci invitava a leggere e a meditare devotamente il Vangelo e gli altri libri ispirati, anche al di fuori della Messa. I minuti giornalieri di lettura del Nuovo Testamento che ti ho consigliato, inserendoti nel contenuto di ogni scena e partecipandovi come uno dei protagonisti, ti servono per incarnare, per compiere il Vangelo nella tua vita e per farlo compiere. Nell'omelia il sacerdote spiega e adatta alle circostanze specifiche dei fedeli il contenuto delle letture. Pertanto è necessario che i presbiteri preparino accuratamente la loro predica, chiedendo luci al Paraclito e sforzandosi di venire incontro alle necessità e di scoprirle delle persone al servizio delle quali esercitano il loro ministero. Benedetto XVI scrive in proposito: «Si evitino omelie generiche o astratte. In particolare chiedo ai ministri di fare in modo che l'omelia ponga la parola di Dio proclamata in stretta relazione con la celebrazione sacramentale e con la vita delle comunità, in modo tale che la parola di Dio sia realmente sostegno e vita della Chiesa». L'omelia è sempre una spiegazione semplice e appassionata, basata sui testi liturgici di qualche aspetto del cammino cristiano. Noi sacerdoti dobbiamo sentire l'urgente necessità di elaborare in maniera affettuosa questo discorso, anche nel caso in cui si limiti a un breve intervento. Lo Spirito Santo desidera servirsi di queste nostre considerazioni per penetrare con maggior profondità nelle anime degli astanti. Riguardo all'attenzione che il cristiano deve prestare alla parola rivelata, risultano pienamente attuali le osservazioni di un sacerdote innamoratissimo di Cristo. Per giungere vicino al Signore attraverso le pagine del Santo Vangelo, raccomando sempre di sforzarvi di entrare nella scena, in modo da parteciparvi come un personaggio tra gli altri. Cerca anzitutto di raffigurarti la scena o il mistero che ti deve servire per raccoglierti e meditare. Poi applica ad essa la mente, prendendo in considerazione uno o l'altro dei lineamenti della vita del Maestro. La tenerezza del suo cuore, la sua umiltà, la sua purezza, il suo modo di compiere la volontà del Padre. Quindi raccontagli tutto quello che in queste cose ti suole capitare, quello che senti, i fatti della tua vita. E presta attenzione perché forse egli vorrà indicarti qualche cosa. È il momento delle emozioni interiori, di renderti conto, di lasciarti convincere. La professione di fede. Con la parola di Dio spiegata dall'omelia e assimilata nell'anima attraverso la meditazione personale, Noi fedeli, sacerdoti e laici, acquisiamo una maggior consapevolezza della dignità della nostra vocazione. Agnosce, o cristiane, dignitatem tuam. Abbi coscienza, o cristiano, della tua dignità, esclamava San Leone Magno. È esattamente quello che ci propone l'ultima parte della liturgia della parola che collega le letture con l'offertorio. La recita del credo, la domenica e nelle solennità, e la preghiera dei fedeli sono come il distintivo del cristiano. In particolare, la recita o il canto del credo deve costituire sempre un motivo di fierezza santa per noi figli di Dio, che assaporiamo la stupefacente realtà di essere popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo. Infatti, siamo un solo popolo che confessa una sola fede, un unico credo, un popolo riunito nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non è eccessivo per un cristiano coerente approfondire la storia e la composizione del simbolo detto niceno-costantinopolitano e del simbolo degli apostoli. Chi non desidera conoscere e inserirsi negli antefatti della propria storia familiare? Un sano desiderio di formazione intellettuale, spirituale, ascetica, storica, irrobustisce l'anima e la incoraggia a perseverare nella fede e a difenderla, senza rinunciare allo sforzo per consolidare nel popolo la preparazione e il rafforzamento della dottrina cristiana. Davvero opportuna è quella considerazione in merito al fatto che, quando nel credo della Messa professiamo la nostra fede, lo facciamo non solo come persone singole, ma come Chiesa. È il corpo mistico di Cristo il soggetto che in noi e attraverso di noi proclama credo. L'atto di fede è personalissimo, ma si riferisce sempre a una fede che è la fede della Chiesa e che soltanto nella Chiesa può essere professata in pienezza. Sarà un altro modo, come ci consiglia il Principe degli Apostoli, di rendere ragione della speranza che è in noi. Prima Pietro 3,15 a coloro che ci osservano. Giovanni Paolo II sottolineava che dopo aver ascoltato la parola di Dio, nella quale vengono proclamate le meraviglie della salvezza e riproposte le esigenze della nuova alleanza, il popolo cristiano si sente chiamato a rispondere a questo dialogo di amore ringraziando e lodando, ma al tempo stesso verificando la propria fedeltà nello sforzo di una continua conversione. L'assemblea domenicale si impegna così all'interiore rinnovamento delle promesse battesimali, che sono in qualche modo implicite nella recita del credo e che la liturgia espressamente prevede nella celebrazione della veglia pasquale o quando viene amministrato il battesimo durante la messa. In questo quadro, la proclamazione della parola nella celebrazione eucaristica della domenica acquista il tono solenne che già l'Antico Testamento prevedeva per i momenti di rinnovamento dell'alleanza, quando veniva proclamata la legge e la comunità di Israele era chiamata come il popolo del deserto ai piedi del Sinai, Esodo 19:7, 8, 24, 3, 7, a ribadire il suo sì, rinnovando la scelta di fedeltà a Dio e di adesione ai suoi precetti. Dio infatti, nel comunicare la sua parola, attende la nostra risposta, risposta che Cristo ha già dato per noi con il suo Amen. Seconda Corinzi 1, 20-22 e che lo Spirito Santo fa risuonare in noi in modo che ciò che si è udito coinvolga profondamente la nostra vita. Come non ricordare le parole dell'Apostolo San Paolo quando incitava a diffondere dappertutto la predicazione evangelica? Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto: quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Romani 10, 10-15. In una lettera del 1967, San José Maria esortava così: «Dite al Signore con tutta l'anima e con desiderio di riparazione: Signore, credo, ti credo con tutto il mio cuore. Credo tutto ciò che in tuo nome insegna la Chiesa. Credo e spero fermamente in te e ti amo sopra ogni cosa. Aiutami, Dio mio, a credere e a far rinascere la tua fede in molti cuori. Davvero meravigliosa è l'opera che il Signore ci ha affidato, quella cioè di diffondere il Vangelo sulla terra e con esso la pace e il bene». Per fare più nostre le verità che si professano nel simbolo, è assai raccomandabile meditarle personalmente. Racchiudono misteri che non riusciremo a comprendere del tutto, ma questo stesso fatto ci conferma che siamo chiamati a partecipare alla vita divina. Dobbiamo sforzarci di recitarle e di assumerle come essenza della nostra identità di cristiani, di figli di Dio che coltivano la santa fierezza di formar parte della famiglia del cielo, della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Teniamo presente in ogni momento che la Santissima Trinità desidera che accogliamo pienamente e che diffondiamo questa dottrina che tanto rinvigorisce e completa la formazione e l'esistenza della donna e dell'uomo cristiano. La preghiera dei fedeli. Con la preghiera dei fedeli termina la prima parte della messa. Grazie al sacerdozio comune ricevuto nel battesimo, i fedeli innalzano preghiere di intercessione per la Chiesa e per il mondo intero. Non sminuiamo l'importanza di questa responsabilità di pregare intensamente per il corpo mistico di Cristo e per l'umanità. Anticamente, prima di elevare tali suppliche, si invitavano i catecumeni ad abbandonare il Tempio. Avevano ascoltato le letture e l'omelia, ma poiché non possedevano ancora il carattere conferito dal battesimo, non erano abilitati all'esercizio del sacerdozio comune. Per questo motivo la prima parte della celebrazione liturgica si chiamava anche Messa dei Catecumeni. La seconda parte invece, quella eucaristica, era riservata ai soli battezzati. Il portico d'ingresso era proprio l'Oratio Fidelium che il Concilio Vaticano II ha ripristinato. L'orazione dei fedeli conserva tutto il sapore del cristianesimo dei primi secoli e risponde al desiderio che San Paolo espone a Timoteo. Raccomando dunque prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Prima Timoteo 2:1-2. È davvero importante la necessità che riguarda ciascuno di noi di continuare la storia della salvezza intercedendo con fede gli uni per gli altri, anche per implorare la protezione del cielo su determinati bisogni estremi o su situazioni di indigenza. Il cristiano non è un essere isolato, sa di far parte della famiglia umana e condivide, nella misura in cui può farlo e se non altro potrà sempre pregare, tutte le questioni che interessano i suoi fratelli. La nostra fede supera le distanze fisiche e le idiosincrasie, ci spinge a metterci al servizio di tutti per guadagnare tutti. 1 Corinzi 9:19-23. Nella preghiera universale o preghiera dei fedeli, il popolo risponde in certo modo alla parola di Dio accolta con fede e, esercitando il proprio sacerdozio battesimale, offre a Dio preghiere per la salvezza di tutti. È conveniente che nelle messe con partecipazione di popolo vi sia normalmente questa preghiera, nella quale si elevino suppliche per la Santa Chiesa, per i governanti, per coloro che portano il peso di varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo. Scacciamo la superficialità o la distrazione nel rispondere a queste suppliche o nell'esprimerle. Non dimentichiamo, infine, che nell'innalzare al cielo tali suppliche è Cristo stesso a presentarlo a Dio Padre nella potenza dello Spirito Santo. Lui, in quanto capo del popolo sacerdotale, continua ad intercedere in cielo per la Chiesa e per il mondo fino alla fine dei secoli, Ebrei 7:24-25, e lo fa in ogni messa, rinnovando il sacrificio del Calvario.